Benvenute e benvenuti alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Come potete vedere è una piccola sede provvisoria che negli anni futuri, fra 2 o 3 anni, verrà trasferita nel polo bibliotecario, quindi stiamo tenendo duro con una tenacia non indifferente. E i libri che vedete esposti sui nostri scaffali rappresentano un quinto del materiale che abbiamo, perché in realtà quasi tutto è in un magazzino, quindi ci muoviamo quotidianamente per andare a recuperare le copie che ci vengono richieste. Siamo particolarmente contenti di poter ospitare questa sera la presentazione del libro Il cuore alpino per l'Abruzzo, e devo ringraziare a questo proposito Ildo Baiesi perché ha creduto in questa biblioteca e ha proposto poco tempo fa appunto questa iniziativa, che abbiamo accolto con grande piacere. E con questa sera, anzi già con ieri sera, siamo entrati in questo clima di avvento, possiamo dirlo così, definirlo così, e nell'attesa che arrivino appunto gli alpini da tutta Italia e che conoscano anche la nostra città. La biblioteca è da mesi però che lavora a questa manifestazione, e infatti, come avete visto anche sulle sedie, abbiamo creato una bibliografia, abbiamo fissato dei libri, abbiamo rinnovato ed integrato la nostra raccolta, che ha per il tema le montagne, gli alpini e la storia. A questo proposito vi ricordo che già ieri sera molti di voi avranno partecipato all'inaugurazione della mostra Alpini e alla presentazione del libro di Valente. Successivamente anche in civica c'è stata la presentazione di un libro di cui non si passa, con l'autore Ruaz, e questa sera tocchiamo un argomento nuovo, diciamo un aspetto che coinvolge tutti anche emotivamente, che è appunto l'aspetto più legato alla solidarietà e all'intervento in occasione recente del terremoto appunto che ha toccato la regione Abruzzo. Questa biblioteca si propone appunto di far conoscere, di approfondire, divulgare attraverso i libri e il materiale che mette a disposizione la storia, la conoscenza di questo gruppo. E vi ricordo anche che questa è la prima iniziativa, ma ne seguiranno delle altre. L'8 maggio avremo con noi Licio Mauro, che ci racconterà attraverso delle immagini la storia degli alpini e delle truppe che qui hanno fatto servizio di leva nella nostra provincia. E poi invece il 10 maggio ci sarà un momento più incentrato sulla storia, con un libro di Zanetti dal titolo E qui, quando fiorirà la terra? Quindi iniziamo con questa sera, e ringrazio il Dobaiesi, ma ringrazio soprattutto anche il presidente Corrado Perona, che è presidente nazionale dell'ANA, e ringrazio di essere qui con noi. Buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, e dovrei fare un sacco di ringraziamenti, ne faccio uno solo, alla direttrice della biblioteca che ti ospita, grazie, è un bel inizio dell'avvento, perché presentiamo un libro particolare, nel senso che dovrebbe raccogliere le fatiche e a volte anche le preoccupazioni che hanno animato 8.500 volontari dell'ANA nell'immane catastrofe che si è abbattuta sull'Abruzzo 3 anni fa. Questo libro è uscito il 6 aprile, esattamente 3 anni dal terremoto. Ringrazio in particolare chi è venuto da più lontano, per esempio il dottor Giarola, che fra l'altro è anche autore di una presentazione molto bella e apprezzata, tutti gli alpini che stamattina si sono sobbarcati a una conferenza stampa piuttosto lunga, però ci fa piacere che siate qui, perché non capita sempre presentare un libro e trovare tutte le sedie occupate, qualcuno anche in piedi. Fa veramente piacere. Com'è nato questo libro? Questo libro è nato all'Alpina. Sapete che noi abbiamo un'organizzazione col Presidente nazionale, un Comitato di Presidenza e un Consiglio Direttivo nazionale. Il Comitato di Presidenza, a qualcuno è venuto in mente di fare qualcosa che ricordasse la presenza alpina in Abruzzo nel momento in cui c'è stato il terremoto, nei campi, nella realizzazione del villaggio di Fossa, la chiesa e poi tutta una serie di iniziative che sono partite individualmente. Ne cito una perché c'è qui un presidente e siccome è debitore di qualcosa di concreto, che per esempio Vittorio Veneto, ha realizzato una costruzione veramente importante, eccezionale per tanti versi, tenuto conto che ci hanno lavorato solo loro e ci hanno messo anche qualche euro dentro. Quindi in un consiglio direttivo di poco meno di un anno fa, il Presidente ha detto ma dovremmo fare un libro sull'Abruzzo e ha nominato una commissione, ha letto nomi di 5-6 consiglieri e poi ha appena detto questo è il compito che avete, arrangiatevi. E noi ci siamo arrangiati all'Alpina, ci siamo messi insieme e abbiamo detto cosa raccontiamo. Questo libro parte da un breve cenno storico sui terremoti in Abruzzo. Il terremoto di Abruzzo non è stato un evento, come posso dire, unico o particolarmente inaspettato, ahimè, perché ogni 200-250 anni l'Abruzzo è stato sottoposto a dei sismi importanti nel 700, nel 500, nel 1300 ed altro. Ci pareva doveroso far capire in che area è successo e come è successo. Poi si è andati avanti a raccontare nel momento in cui alle ore 6 e qualcosa del mattino succede questo, cosa si muove? Ecco, si muove tutta la macchina attraverso il dipartimento, attraverso l'attivazione della protezione civile, qui non c'è l'ingegner Bonaldi che si alza sempre prestissimo al mattino, apre il televisore e sente che quello che è successo, e sapete che la nostra protezione civile ha un'organizzazione abbastanza efficace e pronta, nel senso che operativamente a Milano se arriva un input siamo collegati con le 81 sezioni e i 4.300 erotti gruppi e quindi siamo in grado in tempo reale praticamente di inviare messaggi in modo che partano. In questo caso la raccomandazione era che non partissero o che partissero su richiesta di. E infatti credo che sostanzialmente così sia stato. Allora partono i cinofili, partono altre colonne e subito c'è l'imperativo, salviamo più vite che possibile, sapete ci sono stati più di 300 morti. Una volta superata la crisi del recupero di eventuali superstiti, c'era da sistemare decine di migliaia di persone. E allora lì c'è un capitolo destinato ai campi profughi. E lì vedrete che in questo libro di 240 pagine, con 250 foto, anche per la precisione 240 pagine e 250 foto, abbiamo cercato di raccontarla più per immagini, ma anche per testimonianze. La organizzazione dei campi è stato un lavoro enorme, immane, dove credo che sia stato riconosciuto che la presenza dell'alpino a livello organizzativo abbia dato una risposta seria, organizzata e credo anche efficace. Gli alpini quando partono, dice il Presidente Perona, sono un po' come un diesel, partono lentamente, poi man mano che il motore si scalda e si dice beh, cosa facciamo in Abruzzo? Che segno lasciamo della nostra presenza? E lì è partita l'idea del villaggio, cioè di costruire delle case, però non case baracche provvisorie perché stiano dentro un inverno o d'altro. Case strutturate bene in modo che possano restare per anche eventuali utilizzi futuri, visto che lì c'è una zona archeologica, ci potrebbero essere degli studi ed altro, e si era partiti con l'idea di farne una quindicina. Già fare 15 case, sapete, moltiplicate magari solo per 60-70 mila euro, sono sempre cifre abbastanza importanti. Parole povere, siamo arrivati a un villaggio di 33 case. Però l'appetito viene mangiando, 33 case, poverini, manca anche una chiesa. E allora, avanti, una chiesa, ma vedesse che bella chiesa, una bella chiesa, una bella struttura. E poi, quando sono stati sistemati un po' tutti i profughi, non per cura nostra, ma è ovviamente del Dipartimento, c'è stata una continua presenza ancora delle pene, perché bisognava sistemare tutto il materiale che era rimasto lì, e gli alpini sono rimasti fino all'ultimo, cioè gli alpini credo che siano stati fra gli ultimi a lasciare l'area terremotata. Anche questo avevo cercato di raccontarlo. Poi ci sono state parecchie iniziative, come vi citavo prima, Vittorio Veneto ed altro, perché partiti sullo slancio del fare subito qualcosa, visto che la sede nazionale ci aveva impiegato un mese, due, a decidere cosa fare, naturalmente quelli di Vittorio Veneto partono, come sono partiti loro, sono partiti altri dei gruppi, e allora è nata quella struttura che oggi funziona come ambulatorio polivalente e altre funzioni. Altri gruppi hanno sistemato una chiesetta, altri sono intervenuti, e abbiamo pensato che fosse giusto anche dare una piccola testimonianza a queste manifestazioni di generosità, che non sono rientrate nell'organizzazione dell'ANA nazionale, ma che sono partite dalla generosità degli alpini. E alla fine abbiamo raccolto anche delle testimonianze individuali, di cioè come hanno vissuto alcuni alpini questa avventura, andarci, sistemarsi, l'incontro con la popolazione ed altro, e abbiamo confezionato questo libro con un obiettivo, cioè di renderlo da un punto di vista economico il meno costoso possibile, partendo dal presupposto che è un libro particolarmente destinato ai volontari che sono andati a lavorare, che ci hanno rimesso tempo e denaro per andarci, e non mettevamo giusto guadagnare nemmeno un euro su questo libro, per cui viene a costare 10 euro. Chiunque ha un minimo di conoscenza di cos'è un libro di questo tipo sul mercato, si rende conto che è stato fatto anche qui uno sforzo abbastanza favorevole, se non altro, a chi ha lavorato. E i relatori, una parte sono qui, per esempio c'è il vicepresidente vicario Paolo che ha curato la parte relativa al villaggio, ovviamente il presidente Perone ha fatto la presentazione, e il dottor Giarola ha fatto la sua, ma c'è anche quella di Bertolasi, e poi Zorio per quanto riguarda la chiesa, Valditara per quanto riguarda tutta la parte amministrativa, perché qui abbiamo una contabilità precisa di quanti soldi sono entrati da parte delle raccolte dalle sezioni dei gruppi degli alpini, però sapete che abbiamo avuto un contributo forte, importante da parte di istituzioni, istituti di credito oppure anche altre realtà economiche come gli impianti di funivie sia del Veneto sia della Valle d'Aosta, d'Aosta ed altro, e quindi abbiamo anche un prospetto, abbiamo incassato tanti soldi, tanti ne abbiamo spesi per realizzare questo, quest'altro e quest'altro, fino all'ultimo, un bilancio senza trucchi, potete stare tranquilli. Chiudo dicendovi che per confezionare questo libro ovviamente abbiamo avuto anche degli aiuti veramente importanti, e uno è stato sicuramente quello di Matteo Mattin, che vedete qui, che ci ha messo dentro, oltre che la sua professionalità, ci ha messo dentro anche la passione. E quindi tutto il materiale che arrivava è stato raccolto, è stato selezionato, messo in ordine, poi nelle riunioni veniva presentato. Non è stato facile, soprattutto per rendere non omogeneo, perché questo non è un racconto omogeneo scritto da uno scrittore, sono tanti capitoli scritti da mani diverse. Abbiamo cercato di conservare al massimo la peculiarità di come ognuno si esprime. Ovviamente abbiamo dovuto fare anche degli aggiustamenti, perché per esempio nelle testimonianze individuali qualcuno scriveva una paginetta densa, bella, qualcuno ci scriveva un poema di 5-6 pagine, non potevamo creare anche queste sproporzioni. Ecco, qui Matteo ci ha messo dentro veramente del suo in questo lavoro, e credo che il lavoro più importante è stato fatto nella selezione delle foto. E credo che buona parte del pregio di questo libro siano le foto, cioè è la storia di un dramma raccontata per immagini oltre che per gli scritti. E la commissione ha fatto una prima selezione su delle migliaia di foto, però è stata una selezione molto sbrigativa. Ci siamo trovati in un pomeriggio, sì, questo sì, questo no, questo no. Dopo il lavoro preciso e puntuale se l'è sobbarcato Matteo. Comunque dopo dirà anche lui due cose e qualche sua impressione sulla realizzazione di questo. Per concludere in modo definitivo, ovviamente il rapporto è stato importante anche da parte della redazione dell'Alpino. Qualcosa del suo ce l'ha messo anche Gian Gaspare, però l'ha fatto più con l'occhio del padrone, che controlla se il suo gregge si comporta come si deve. In realtà tutta la parte della correzione è stata fatta da Giuliana e da Valeria, ai quali vanno sicuramente i nostri ringraziamenti, che lo hanno fatto dedicando tempo, ma soprattutto l'hanno fatto con grande passione. E guardate che quello che ci caratterizza nel fare le nostre cose non è perché le facciamo e le facciamo anche bene, è che le facciamo con cuore. E allora capite anche perché questo si chiama Cuore Alpino per l'Abruzzo. Grazie. Matteo? Aggiungo veramente due cose a quello che ha detto il direttore, ed è questo, che tutte le testimonianze e i racconti sono stati fatti dalle persone che hanno collaborato nell'intervento in Abruzzo, sia durante l'emergenza e sia successivamente, quindi intervenendo sul territorio, aiutando. Ed è questo, questa è la cosa più bella, perché è un racconto genuino e autentico dell'intervento. L'intervento si snoda sia dalla parte, come ha spiegato il direttore prima, di un intervento iniziale durante l'emergenza, ma poi è stata dedicata una parte cospicua sia a tutte le sezioni in cui si suddivide l'associazione che hanno collaborato, quindi i numerosi interventi raccogliendo soldi sul territorio, sono stati raccolti oltre 4 milioni, quasi 4 milioni di euro in totale, che è una cifra considerevole, e anche a tutte le testimonianze dei vari volontari, che sono la forza dell'associazione. I volontari hanno descritto la loro vita quotidiana nei campi. Sembra un discorso delle testimonianze molte volte spicciole, che entrano nelle cose quotidiane, ma che in realtà rendono conto di una grande abnegazione di queste persone, che hanno dovuto superare spesso ostacoli, sono andati oltre e hanno appunto con lo slancio, con il cuore alpino, sono andati oltre agli ostacoli e hanno ottenuto un grandissimo risultato. Un'ultima annotazione: il libro si apre con una splendida aquila che si libra in volo e si chiude con un arcobaleno. Un arcobaleno, di fianco all'arcobaleno c'è una testimonianza che ci è arrivata in protezione civile da degli abitanti abruzzesi, ed è forse il ringraziamento più bello a noi alpini. Bravo. Sebastiano? Io ho poco da dire, nel senso che la presentazione del libro è stata fatta, è stato indicato, scusami, stato indicato i vari tipi di intervento, ecco quello che è spettato a me, non solo a me, a tutti coloro che nella commissione e poi i volontari che hanno collaborato, è stato quella della, una volta individuato dal Consiglio nazionale l'obiettivo di costruire un intervento a fossa, è stato quello di progettarlo, di coordinarlo, di trovare le ditte idonee e di trovare soprattutto i nostri volontari capaci poi di operare e di realizzare quanto avevamo pensato. Posso solo dire questo, che abbiamo realizzato il tutto dal momento in cui è stata individuata Fossa come località e come comune in cui intervenire, ed è stato ai primi di luglio, al momento in cui abbiamo deciso un primo intervento che era di 24 alloggi, poi estesi a 32, ma non potevamo fare 32, lo capite benissimo, dovevamo fare 33 per forza di cose, e siamo arrivati alla fine di agosto. L'inizio dei lavori è stato il 25 di agosto e la consegna dei lavori è stata il 30 di novembre. Cioè abbiamo realizzato 33 alloggi in un tempo molto molto breve, coordinando imprese diverse e soprattutto coordinando i nostri volontari. Ma è soprattutto merito loro, merito dei nostri volontari che ovviamente si adeguavano a tutte le situazioni e a tutte le esigenze, non hanno guardato a ore, a domeniche, a feste comandate, hanno lavorato perché sapevano che l'obiettivo era quello e su quell'obiettivo tutti abbiamo lavorato. Ecco, credo che sia stata una testimonianza forte, importante, che gli alpini sanno ogni volta dare come segno della loro disponibilità, dell'essere presenti, magari se volete qualche volta brontolando, ci sono delle signore, non possiamo dire altri aspetti, però il brontolare dell'alpino è un brontolare che vuol portare a un risultato, che vuol raggiungere un risultato, e vedere le loro facce all'inaugurazione e alla consegna delle case, soprattutto alla consegna delle case ai singoli cittadini, ecco, quella per me è stata la più grande soddisfazione. Ero già abituato a conoscere i volontari alpini perché ho un'esperienza abbastanza lunga in questo senso, che è cominciata con Roscios ed è proseguita con Zenica, poi col Mozambico, poi con l'Abruzzo, adesso con la casa per Luca, però è ogni volta una forte emozione, e l'Abruzzo per me è stata una forte e grande emozione che ha riconfermato i nostri valori, i valori dei nostri alpini. Ecco, adesso il dottor Giarola ci dirà l'impressione che ha avuto a lavorare con questi alpini. Tema impegnativo. Io non ho il berretto, ma l'unica insegna è questa che ho rubato domenica in un corpo a corpo con il generale Beolchini alla conclusione degli stati generali del volontariato, però sono riuscito a sottrargliela. E proprio quello, se vi permettete, è il pensiero iniziale. Inaugurando questo incontro che è stato a Roma e si è tenuto negli ultimi 3 giorni, tutti i volontari di Protezione Civile e dei loro delegati, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto alcune cose, e nell'ascoltarlo, come dire, mi è venuta molto spontaneamente da pensare che quello a cui lui si riferiva era esattamente l'esperienza che la vostra associazione rappresenta così bene. Parlando dei volontari, vi ho detto la particolarità del volontario di Protezione Civile, che c'è nel primo momento, che è quello dell'emergenza, del bisogno, ma c'è anche nel tempo del recupero, che è un tempo, ha usato queste parole, più lento e per questo più insidioso. E questo credo che sia senz'altro un tema che bene incarna quella che è la particolarità dell'Associazione Nazionale Alpini. Per me è stato un onore ovviamente poter aggiungere qualche nota a questo volume, e vedendolo si riesce a cogliere esattamente questa storia che voi rappresentate. Mi viene da pensare che questo libro, più che un ricordo dell'esperienza dell'Associazione Nazionale Alpini in Abruzzo, è un programma che noi possiamo dare a tutto il volontariato di protezione civile, perché qui dentro noi troviamo una serie di indicazioni, troviamo le risposte che la gran parte dei volontari di protezione civile devono darsi quando approcciano il loro lavoro. Bisogna esserci, bisogna avere la visione lunga dei bisogni delle persone. La scelta che l'associazione ha fatto di lasciare una traccia, che peraltro è la scelta che l'associazione fa in tutte le sue attività, la stessa adunata ha questa caratteristica sempre molto forte, è una scelta che dà una prospettiva di tempo rispetto all'impegno che viene dato, che va oltre, perché le persone, quando ci si avvicina alle persone, questa vicinanza, se è vera, se è autentica, non si riduce in una stretta di mano di un momento, ma diventa qualcosa che rimane, un segnale che rimane per sempre. E io ho cercato di scriverlo nelle due righe delle note che ho fatto a questo volume. Per me lavorare con il volontariato è un'esperienza molto particolare. Io e il collega Massimo La Pietra, che è qui con me, abbiamo una grande fortuna, io credo, perché siamo funzionari dello Stato, siamo impiegati pubblici, però abbiamo la fortuna di lavorare in un settore a contatto con delle persone eccezionali, che diventano, come dire, anche un banco di prova costante dell'attività che facciamo. Io mi sento, credo, costantemente sotto esame, e penso che sia giusto così, penso che sia un atteggiamento molto giusto, ma questo atteggiamento scaturisce anche dal fatto che il confronto che abbiamo è con persone molto particolari. La storia non è fatta solo di numeri di uomini, i numeri dell'Associazione Nazionale Alpini sono senz'altro impressionanti, la storia è fatta anche dagli individui che sono dietro a questi uomini, degli individui e delle persone speciali che hanno molto da insegnare, e come dire, la sensazione che io vivo quotidianamente è quella di sperare e di impegnarmi per meritarvi. E questo è l'impegno che io trovo sempre rafforzato anche oggi venendo qua tra di voi. Grazie. Grazie, dottor Giarola. Adesso io vi faccio una domanda che, sì, vuol dire che non ha senso. Che ne pensate? Il libro non l'avete visto, è appena uscito da qualche settimana, ma noi lo abbiamo adesso perché poi è passato in cellofanatura, la rilegatura e l'altro, quindi non l'avete visto. Però se dagli interventi che ci sono stati c'è qualche domanda, qualcosa che ritenete da porre qui a questo tavolo come quesito, è giusto che lo facciate adesso. Faccio anche una provocazione. C'è qui il presidente della sezione Abruzzo e noi presentiamo un libro sull'Abruzzo partendo dal presupposto che sanno tutti quelli che si interessano dei libri che questa è una presentazione fatta in un'occasione particolare che è stata quella della conferenza stampa ed altro, ma siccome i libri non sono come lo yogurt che dopo 3-4 giorni vanno male, i libri restano per tanto tempo, è chiaro che la sede nazionale farà delle presentazioni in altre aree geografiche, in altre realtà, nei momenti opportuni e quando lo ritenerà utile. Perché ho citato il presidente Natale, perché si è sobbarcato un viaggio lungo, importante, è venuto su e credo che, visto che è coinvolto, se non altro perché è un libro della sua terra, ecco, se ha qualcosa da chiederci, da dirci. Buonasera, porto il saluto alla Presidente Nazionale degli Alpini Abruzzesi, saluto le esime personalità qui presenti. Io non ero stato invitato, ma leggendolo sull'Alpino, come Presidente di una sezione, come Presidente della Regione particolarmente interessata a questo evento, ho ritenuto essere presente, perché è un obbligo morale degli alpini che rappresento, è un obbligo morale della gente d'Abruzzo che mi sento di rappresentare, è un obbligo morale mio personale. Presidente, voi sapete, siete state più volte in Abruzzo, sapete quanto gli alpini abruzzesi hanno fatto, anche in occasione, nonostante che colpiti l'abbiamo fatto nella gestione del terremoto. La sera alle 4 circa, non appena verificato l'evento, io ho chiamato Torino Purificati, perché anche io sono stato colpito dall'evento, perché ero in un paese a ridosso proprio del Gran Sasso. Chiamato Torino Purificati che mi diceva: io mi trovo lungo il corso di Aquila, in mezzo al fumo, in mezzo alle macerie. Ecco, i primi ad intervenire, le nostre colonne mobili della protezione civile, della nostra associazione, della nostra sezione, già alle 4 erano in movimento, già alle 4 erano alle porte dell'Aquila, nonostante che i nostri paesi fossero stati colpiti. L'attaccamento con cui abbiamo gestito il campo, l'unico campo gestito autonomamente dall'associazione Alpini, il campo di Paganica 4, la chiusura poi di tutti i lavori del recupero di tutte le attrezzature della protezione civile che erano rimasti nei vari campi, la ricatalogazione, noi siamo stati gli ultimi alpini a lasciare la mobilitazione della protezione civile. Ecco, il Presidente ha ritenuto opportuno essere presente, benché non invitato, perché ritengo giusto, molte volte al di fuori di quelle che possono essere le prassi cerimoniali. Sappiate che la sezione ha un occhio particolare verso questo intervento, perché lo ritiene essenziale. Io non mi prolungo oltre, vi ringrazio tanto di avermi concesso la parola e sicuramente la sezione Abruzzo sarà in massa a Bolzano a ringraziare ancora una volta per quanto l'ANA ha fatto per l'Abruzzo e per gli alpini abruzzesi. Grazie. Sicuramente c'è qualche altra domanda nella testa di tutti voi o di qualcuno di voi. È il momento, o adesso o mai più. Silenzio. Una veloce per da mettere sul giornale. Il testo disponibile in tutte le librerie di ecco, Italia. La redazione dell'Alpino vi ha passato, che sapete, col tempo la memoria a volte perde qualche colpo, no? Allora, il libro è in vendita presso la libreria Cappelli, però è un numero abbastanza limitato, come vi ho detto, questi sono stati rilegati e ce l'ho pagati al tempo di record per portarli qui a Bolzano. Quindi, libreria Cappelli, in piazza Vittoria. Durante la donata nazionale presso la Servizi ANA, Hotel Laurin. Hotel Laurin, ecco, lì ce ne sarà c'è una disponibilità più ampia di copie, che però abbiamo stampato in numero abbastanza limitato perché riteniamo di non fare magazzino, cioè vogliamo venderle, ecco. E quindi se teniamo presente che i volontari sono stati 8.500, sono stati coinvolti presidenti e altro, perlomeno 10-15 mila persone sono state presenti, noi ne abbiamo stampato 4.000 copie. Va bene. Se non c'è nient'altro, chiude il Presidente Nazionale. Bene. È vero, se non bastano le 4.000 copie, noi ce lo auguriamo, appunto, provvederemo a ristamparne delle altre. Una serata particolare, ringrazio la proprietà che ci ha messo a disposizione e che ha presentato questa, diciamo, presentazione del libro, un libro particolare, penso. Non succede sovente che l'associazione si improvvisi editore di un qualche cosa, anche se sugli alpini sono state scritte migliaia e migliaia di libri, anche tanti di questi libri sono stati scritti per fortuna in tempo di pace. E questa sera è stato per me emozionante, anche se mi era stato detto che probabilmente sarebbe stato presente il dottor Giarola, e l'emozione grande è stata anche la presenza del presidente della sezione Abruzzo, Giovanni Natale. E perché il dottor Giarola e perché Giovanni Natale? Perché corre un po' sul filo queste persone, rappresentante di alto livello della nostra protezione civile, presidente ora, ma vicepresidente ai tempi del terremoto d'Abruzzo. La protezione civile, per quel feeling che ci lega, per quell'impegno che l'Associazione Nazionale ha sottoscritto con voi, per quelle molti motivi che ci legano da esperienze difficili dalle quali si è sempre usciti a testa alta, sicuri di aver fatto il nostro dovere fino in fondo, il vostro che è direttivo e ha maggiori responsabilità che non quelle dei volontari che agiscono, senza i quali sarebbe impossibile procedere. Noi siamo dei fedeli esecutori e lo facciamo, caro dottore, perché sappiamo che la vostra esperienza, la vostra professionalità, la vostra umanità, perché la umanità è un fattore che conta in periodi dell'emergenza e della tristezza, quanto ci si possa fidare l'uno dell'altro, quanto si lavori diciamo con unità di intenti, ma soprattutto sorretti dalla fiducia. Anche questa volta voi avete avuto fiducia in noi e noi abbiamo riposto fiducia in voi. La sezione Abruzzi si è trovato nel giro di pochi minuti sconvolta, specialmente la città dell'Aquila, la zona circostante, i lutti, 300, era un passo di 300 morti, feriti, senza tetto, la disperazione della gente, l'immediatezza dell'intervento anche della sezione, che la disgrazia l'ha avuta in casa. Io mi ricordo che appena sono sceso in Abruzzo sono andato a Paganica, perché a Paganica avevano improvvisato, ma in modo egregio, il primo campo che poi è andato allargandosi, che poi si è perfezionato, ma già dalle prime ore. L'Abruzzo penso che abbia determinato nell'associazione un qualcosa di più. Perché l'Abruzzo è terra di alpini, non solo perché è composta da una grande sezione dal punto di vista numerico, ma perché gli alpini abruzzesi sono nati quando è nato, sono nate il corpo degli alpini, quindi una componente importante per me lo è maggiormente, perché un piemontese che capita al battaglione L'Aquila a fare il servizio militare non è cosa di tutti i giorni, è qualcosa che ti rimane nella pelle, che ti porti appresso per tutta la vita, e quindi lo sentivo in modo particolare questo disagio che aveva colpito loro, questa enorme disgrazia, quindi il loro impegno, il loro lavoro. E poi cosa volete? Un presidente nazionale è sempre debitore in questa associazione verso i propri associati, verso i propri alpini, e quindi io raccolgo sovente meriti che non sono principalmente miei, anzi, ma che sono dell'intera struttura, che ha sicuramente un presidente, un consiglio direttivo nazionale, come ci sono 81 presidenti di sezione in Italia e 4.300 e passa capigruppo, la struttura è quella, che poi non ci sono vertici più importanti o meno, direi che non ci sono vertici, c'è un qualche cosa che dura da 93 anni che funziona bene. In questo caso, e poi il dottor Giarolo lo sa, la protezione civile è sempre un qualcosa che si perfeziona nel tempo, ma nel tempo anche breve. Quindi il merito di questa associazione è questo, di avere delle strutture importanti, degli uomini importanti, perché anche nel nostro contesto abbiamo delle capacità umane che sono sicuramente all'altezza della situazione, che ci confortano, e quindi abbiamo la sicurezza, e quando ci muoviamo a ragion veduta, e abbiamo acquisito, ahimè, anche un'esperienza formidabile. Cuore alpino, beh, il cuore c'è sempre, questa volta è stato rivolto all'Abruzzo, come vi ho detto, la grande partecipazione, ma soprattutto la soddisfazione della costruzione di questo villaggio, ma dello stare assieme alla gente, perché un po' in tutti i campi c'erano alpini che collaboravano e che davano il meglio di loro stessi. Dove spendere quei soldi? È stato per noi per un po' di tempo il punto interrogativo. Io mi ricordo che sono andato, quando sono venuto a volte in Abruzzo, mi avevano detto che c'era il dottor Bertolaso al Globo, e allora ho fatto attesa, l'ho aspettato e ho detto: dottore, i soldi stanno arrivando, dove andiamo a spendere? Mi dia delle indicazioni, mi dia delle indicazioni. E so che mi aveva dato 3 segnalazioni. Poi noi abbiamo fatto i nostri accertamenti, siamo andati a vedere e abbiamo scelto Fossa, siamo contenti di quella scelta perché abbiamo avuto anche un feeling con l'amministrazione comunale particolare. Quando si costruisce qualcosa di nuovo per dare vita a un'iniziativa che deve durare nel tempo, uno si affeziona ancora maggiormente, entra nella parte direttamente, e quindi Fossa è diventato un po' il simbolo di questa associazione, ma non abbiamo dimenticato il resto d'Abruzzo, perché ecco, non solo a Paganica, la sezione di Vittorio Veneto, ma il Piemonte, a Valsciano, altri luoghi, abbiamo cercato di essere un po' presenti dappertutto. Un libro che esce senza avere la pretesa di mettere in mostra la disponibilità o il cuore degli alpini. Questo libro è stato fatto per i nostri volontari principalmente, per quegli uomini che non compaiono mai in prima fila, ma che sono assolutamente in prima linea in tutte le emergenze. Questo cuore alpino per l'Abruzzo è quello dei nostri volontari che si sono prodigati, che hanno tutti un nome e cognome ma che non compaiono mai, che sono quegli splendidi uomini che cementano e portano avanti un settore importante, che è quello della generosità distribuita nella protezione civile, che fa forte questa associazione, ma si cala nel tessuto sociale. E questo è il desiderio di questa nostra associazione in modo determinante, a disposizione di quel prossimo che soffre, che ha bisogno degli alpini. Quindi la nostra utilità, guardando la storia del nostro corpo che raggiunge quest'anno i 140 anni di vita, è proprio dire, per onorare la nostra storia, per continuare i valori di questa storia, per dare ai nostri vecchi la possibilità di sorridere. Ecco, questa associazione deve essere un'associazione moderna, calata nella società a disposizione degli altri. Penso che ci siamo riusciti e questo libro, lo ripeto, parlando di cuore, è un libro che ci appartiene a tutti noi stessi, in modo particolare coloro i quali si sono adoperati in qualsiasi modo e in qualsiasi rango per far sì che l'Abruzzo e la gente dell'Aquila in modo particolare ritorni a volare e torni a vedere il sereno attraverso quell'arcobaleno che è pur sempre un segnale di speranza. A Bolzano la sezione Abruzzi ha garantito la propria partecipazione, ma non lo doveva dire il Presidente, perché è una cosa scontata che l'Abruzzo venga sempre in massa alle nostre donate. Io mi ricordo forse la donata più difficile per loro è stata quella di Latina. Ebbene, si sono presentati più forti che mai, hanno avuto quel grande applauso della popolazione di Latina e ancora Abruzzo a significare la generosità di questa associazione. Grazie a voi tutti e a tutte che siete intervenuti e ci avete ascoltati. Chiudiamo allora qui e devo... No, volevo... Ecco. Ho dimenticato qualcosa, perché volevo donare al Presidente Natale il libro. L'ho messo qua. Gira il libro. No, dottore, qua. Qua, dottore. In mezzo, su, dottore. Vieni, dottore. Ecco. Allora, ancora un attimo, l'amico Brunello mi ha detto, ho riservato a te un incarico importante, che non dico io, perché se lo dici tu valorizza maggiormente l'opera di Crugnola, e io mi sono completamente dimenticato, ma l'emozione coinvolge anche un presidente, anche se ormai 8 anni di esperienza avrebbero dovuto forgiarmi maggiormente, ma l'emozione mi ha tradito. Quindi Adriano Crugnola, qualcuno dice come potete venderlo a 10 euro un libro così. È bastato Crugnola, che penso che abbia martirizzato quello che ci ha dato la carta, lo stampatore, il correttore delle bozze, mi ha tirato giù. Un bel giorno mi vengono a dire: lo possiamo vendere a 10 euro. E non credevo ai miei occhi quando ho visto la veste, come questo libro ha avuto la luce. Quindi a Adriano i ringraziamenti per aver saputo economizzare e rendere popolare il prezzo di questo libro, e poi dietro a lui c'è anche Beppe Bonaldi, che naturalmente è stato il capo in testa di tutta l'organizzazione della protezione civile in Abruzzo. Mi avevano detto che eri in riunione al lavoro, adesso ti vedo, quindi ringrazio anche te per quanto Beppe Bonaldi, vero, posso dirlo, devo dirlo, dottore, ha fatto alla guida della nostra protezione civile nazionale. Grazie ancora a tutti.